Una doppia parola, autorità, autorevolezza, spesso queste due parole sono intercambiabili. Adottiamo anche qui la trattazione congiunta, ma non per la parte che lega i due termini, piuttosto per ciò che li divide. Spesso infatti si oppone autorità ed autorevolezza a tutto vantaggio di quest'ultima, cioè di autorevolezza. L'autorità sarebbe una sorta di divisa imposta dall'esterno, mentre l'autorevolezza emanerebbe, per così dire, dalla persona per ciò che ha fatto o pensato durante la vita. Non vogliamo contestare questa diffusa opinione, ma solo metterle a lato una diversa considerazione dei due termini. Può essere difficile opporsi all'autorità, specie se viene imposta con la forza. Possiamo essere costretti a fare e dire cose di cui non siamo assolutamente convinti. Spesso l'autorità penetra anche nel nostro cervello, devastandolo. Ma devastare non è convincere, e dopo un'adeguata cura è possibile che i guasti vengano riparati e il cervello riprenda il suo normale funzionamento. Altrimenti agisce l'autorevolezza, non con la forza o la costrizione fisica, ma contagiando il pensiero altrui quasi inavvertitamente, fino a occuparlo interamente. Si pensi ad Aristotele e alla sua influenza sul pensiero medievale. Certo, anche nel caso suo si parla di autorità, ma la via per la quale questa autorità è stata raggiunta è stata piuttosto quella dell'autorevolezza. Vie analoghe vengono percorse anche da molte religioni, dove l'iniziale autorevolezza degenera col tempo in autorità. Ma quando questo accade, una nuova autorevolezza può aver ragione dell'ormai sclerotizzata autorità. Dunque, e quindi ecco, una lettura di questo genere non dice, non convince di nulla, lascia aperto un problema. Allora, autorità o autorevolezza? E questo è un po' lo scopo di queste metaparole, di non dare mai una soluzione, ma di proporre delle alternative e di discutere poi assieme.